Un piano per uccidere Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, al centro di un disegno omicida organizzato dal clan dei Casalesi. A rivelarlo il boss Carmine Schiavone, ora collaboratore di giustizia. Da 2 anni dopo l'uscita del bestseller, nel quale denuncia le attività illecite della Camorra, Saviano vive sotto protezione di una squadra di carabinieri che notte e giorno non lo perdono di vista. Oggi Saviano si è recato negli uffici della Procura partenopea, dove ha avuto un colloquio di circa 2 ore con il coordinatore della direzione distrettuale antimafia Franco Roberti. Lo scrittore non ha rilasciato dichiarazioni. Intanto i magistrati della DDA dovrebbero interrogare quanto prima il pentito, che attualmente vive in una località protetta. A giudizio del PM Marco Del Gaudio, nel clima che si è creato non è da escludere che i casalesi abbiano deciso di colpire un simbolo della lotta alla Camorra come Saviano. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.